Mario, un attimino che sto facendo una cosa, già entro subito. Ah? Un attimino che sto facendo una cosa, entro subito. Buonasera. Buonasera, d'accordo. Chiama allora. Ciao Mari. Finito? Sì, ho finito, ho messo a posto. Devo mettere a posto la cosa. Sarò dentro nell'altra camera. Andare. Non ho capito ciò che c'aveva il volume basso. Ripeti. Ho detto che ho messo a posto, stavo mettendo la cinghietta all'orologio in pelle. Fammi mulieri. Caggio finito. Ah. Ok. Bene, bene. Ma chi io ho sentito, ho chiamato per le volte, non ho risposto. Deve essere indaffarato. Ah, boh, sei rientrato, Chi sei? Bisogna vedere se c'ha posto l'antenna, buru. Che lo pensi che c'è in campagna ancora, ma... cazzo, già ripete, ed è buio, buio forte, cazzo. Adesso fa buio prima e dovrebbe rientrare prima, no? Così è, però non so se... sei in casa, boh. Attento, signor Bacchisito. Oddio, travagliente, non gli appoggio l'antenna. Sicuramente. Sarà così, boh, non lo so. Che antenna nelle parata? Ma non era matto, era un'antenna minore. Ah, un'antenna che stava usando quando era giù. L'ha messa per usarla quando era rimaneva dentro in casa per non salire su. Ah, ecco. Pensavo la matto, voglio, ma l'ho vista la matto ancora dritta. E infatti allora cacca l'antenna e allora stavo facendo a poco. Ma già ce l'ha fuori già. Penso di sì. Ieri non voleva salire su. Adesso su ci sarà anche freddo adesso, no? Andiamo già fuori, entri. E ti buoni in questa cameretta oggi. Adesso come sta a Titia, per cui secondo me c'è freddo, per cui sai com'è. Adesso conviene stare in caldo, tranquilli. Magari l'estate va bene, ma in inverno sai com'è. Di tiro do caro in chi vi è beccato, d'inverno do caro freddo, però dentro vi è beccato. Così che di tiro vi è beccato, e inverno vi è freddo. Ma dentro quel ripostiglio già ci sta bene, e anche d'inverno, però... quando esci di bisegheggia? Ma li massaggi si fa tu no? Dentro dove c'è il coso rimane. Un porti, come ti si chiama? Un terrazzino manno. Ah, capito. Magari dove c'è la freddo freddo. Poi va freddo, si può attaccare la cuffia perché... poi sta tranquillo, no? Come te dici, no? Se non voglio attendere la stufa, ma faccio una stufetta estera con mille ore, mille bocco appese, a chi va Giuseppe prende appese, no? Infatti, se non vuoi accendere il grosso, accendi il piccolino. Infatti, allora. Magari la doccia, no? La doccia mi zappo, ma appese c'ho sempre freddo io, non è vero? Giuseppe freddo, appese, mia mamma si è zambato va via i giabbati e va via freddo a ridicchi, a ripiti, no? Allora ci butto i bancati che sono vespati, anche se ho un numero più umano, ma va a comprare un gaggio. Infatti è così, vabbè, una cosa piano piano. Stasera avevo un risaio per cui è fresco, così che bisogna essere attrezzati. infatti oggi bisogna essere attrezzati, infatti in ogni buru, quando comincia a chiedere la camera, cominciava a freddo, ci vero un riscaldamento acceso andava, però se no mi toccasse nemmeno una tuffetta. Ma avevo molto la giacca della tuta io, tanto, cazzo. pacchi sino per freno. Così che bisogna essere stampati a chissà come. Poi si piglia subito e dopo i cini e magari entra subito, ma i cini è male. Entra subito, però da bui è tutto chi suo, vabbè. Aspetta, chiamavo se è entrato il signor Macchisio. Attenzione, signor Macchisio, ha detto che no. È inapparato, Va, forse avrà ancora, va. Stava a entrare, non mi ha salutato. Marino, se sentite, Marino, sei inapparato, sotto all'albero. Ciao Mari, io ti devo lasciare che devo andare a prendere la signora, ma ci manda va. Ok. Vai, sto già acceso qua. Chiama quando è. Ehi, Gio Mari, ci sentiamo dopo. Bacchi, tu sei. Attento, Bacchisio. Ciao Mari. Eccoci qua, sto. Tutto a posto? Tutto a posto, sono rientrato. Ma bene, com'è la radio? Buona, 5 perfetta. Perfetta, va bene allora. E per qualche sei grande oggi. Ah? Ah, si sente? Sì, ma non te l'avevo capito perché mi stava parlando mia moglie. E a farla scaldare un pochettino, che a tanto non lo accendo. Così che bisogna farlo lavorare un pochettino. Fai bene. Aspetta che chiamiamo il signor Macchisio se c'è. Signor Macchisio! L'ho chiamato anch'io due volte. Evidentemente è già farato. Sicuramente. Cazzo, sempre bene che siamo, sempre bene. Cazzo, se invece riposarsi, boh! cosa gli vuoi fare? Cazzo, tutta lì, il caffè di campagna, arriva a casa e travaglia in casa. Ah, ti sta, abbia detto che vai in tagana di travagliare. È meglio sempre muoversi. Allora, è una settimana, io non la giocavo, ma ti immaginate che... Potrei venire pure a me pure la grande travagliata. Aspetta, andavi via. Dai, siamo travagliati, a macchina. Fate movimento e tira davanti perfettamente. Spero, ma chi? Poc'anzi è stato Luca. Si è assentato, dice che ci faceva la luce, dopo rientrava. E Luca è lungo. Vuol dire che è ancora ben la luce. E lasci a bagnomaria, devi lasci. Atta, chi già qua è mezza leva, fa facci più molle. Infatti. Vabbè. Cazzo, c'è la mancata leva, mancatelo. Ah, c'è buro. Chi è? Già c'è, buonasera signor Macchisio. E Laura, siamo mezz'ora, già mendete. Ma so io. E io pure sono Macchisio, Macchi, buonasera. Buonasera, basta. Basta, Ma non sarà la recensione del tuo Macchisio. Allora la radio tua, ma chi? So, com'è la radio? Ah, doia, è perfetta, ti intendo bene. Allora, come ti intendo? Beh, mi intendo. Io ti sento bene, fondo scala. Quindi, signor Macchi. Macchi, compri là più fondo a quell'apparecchio. Ah, aspetta, io orneggiando sta. Allora, signor Macchi, porta a posto un cavo. Ma allora sta apparecchio, è baratto veramente. Di pari, vabbè, andemmo. A chi? Solleva la voce, solleva la voce. Aspetta che ho con la gente, avrà visto a voi gli assicurati tutti di bene. La vita. ragazzi, aveva se pelle di piatta ancora e stasera non entra. Aspetta, un bel di rugga distrutto, distrutto tutto che sono temporale alle mani. E allora, meno male che ha fatto un po' di pausa oggi, là. E infatti, distrutto un bel di cosa distrutto. Hai visto la terracina? Quindi sai pure in appaggio in fila, pure andata all'altra. Solo il tipo ha fatto disastro. Ma no, hai visto a Cagliari che disastro ha fatto, le vacche le c'era tutti. Ma è stato pure un allampato? Sai pure un allampato, ma non ci sono bene. E tutti i rocchi hai pure in appaggio. Certo. Secolare, cazzo. Prima o poi devi fare le fasi belle d'anno, Lì ci andano tutti in terra, il rischio assato. Certo, ma chi si secolare, prima o poi devi fare le fasi di là davvero, Allora prima si dice che non le scuole in terra. Certo. Purtroppo, per un comune non lo usa. Ma tu mangi sei così basso, va? Infatti là si è abbassato un bel. Ma laggiù stai parlando, Bacchi? Bacchi, io! Eia! Cosa ti è successo? Niente è successo. Ero senza cavo, senza antenna ero. E col cavo staccato. Ma ieri però, e adesso cosa ti è successo? Non ero attaccato. Mi sento sopra pappolati. Mi prendo a suo Bacchi, sennò dopo diciamo ci alteriamo. Come è meglio sento? E voi? Noi siamo così. Oh, ma stasera proprio No, ieri siamo venuti solo con il campo, perché siamo spostati davanti a Dino. Io ho avuto la nuova tutta, e tu hai fatto il fuoco, cioè l'ho fatto, però è successo qualche cosa strana. È successo qualcosa strana nel cavo. Perché ha già tirato e si è pigiato. Ma ti compare buonanera che cavo vuole in TV. E fanno arrivi giù su. No, questo è una cavaniera, visto, ormai è vecchio. È vecchio e travecchio, c'ha le sezioni e poi si è piegato, l'ho piegato l'ha trovato un oro. E penso che sia successo con qualche fatto tracca lì. Infatti. Ne metto di quelli di quello fine non ne hai. Ne ho due discese con quello. C'è il PMR che ho con quel tavolo fino. Gliene metti un altro, gliene metti e glielo cambi. Infatti, farò così, appena che mi fanno una giornata di buono, mi sbatto la faccia da sole e lo compro. Se vuoi ti do quello che c'avevo io, quello grosso mio. Quello era buono, non ce n'aveva dispersione di nulla. L'ho regalato a Marino con 20 metri, un buono affare del genere l'ho fatto. A chi non aveva le palle in terra, ne avevo una mattata, ho cambiato il campo qua. Ho cambiato quello di giù e mi ero avanzato, l'ho regalato a Marino. Una volta devi mettere quello fine, ti devi mettere. Così è. Quindi non è più maneggevole, quello grosso vuoi fare. Quindi posso fare le cose, le palle, io posso attaccare una cosa. Aiaia, avanti, signor Figaro. Signor Bacchisio, buonasera. Piglia di quello H755, quello è. Quello che è buonissimo il capo, il Bacchisio. E ci piace quello, almeno puoi piegare come vuoi. Ho comprato l'altro. Quello con la calza con alluminio e rame. C'era la cosa. La calza in più, quella di adesivo, alluminio mi dovrei sia, e alluminio vuoi dire. Va bene. Bene, va. Avanti, signor Tor. Sì, appena faccio appena ti vedo, druggiambi e via. E infatti, no. Vuole cambiato, vuole fatto al remiso. Che ce ne vogliono, dunque, 10, 15, 25 metri. Una cosa che c'è da fare, bisogna farla e basta. Già si trova il tempo, ma chi già si trova? Ah, ma fuori devi uscire per mettere questo capo, così è chiaro, in terrazzo devo andare, no? Da terrazzo scende in cortile, entra dentro casa, attraversa una veranda e arriva all'angolo vero della radio. Quanti metri sono più per giù? A 110 metri sono 25 metri. Penso, mi sa che lo misuri bene. Perché se corto non si può aggiungere, se lungo lo puoi tagliare. Infatti è meglio mettere in siero, aggiungerlo. Quando tu raggiungi c'è il barilotto, sembra così, ma perde, c'è la pizza. Anche se fatto bene la pizza, invece con lei direttamente è più perfetto. Poi vedrai, meglio più lungo che corto. Aspetta che ho finito a Luca, mi sembra che sia passato Luca. Luca! Ha parlato, ha detto qualcosa, poi caput. Siamo di caso troppo in mezzo all'Eva. Allora, è che era troppo vivi l'Eva, hai capito? E non ve l'ha fatta, io sono venuto a farsi la luce. Non riprende, evidentemente è impegnato, là. Non riprende giù. Giomari, siamo di caso troppo, ma non riesce a mangiare. forse mi è stato troppo a molle. Ma se tu sei a crucifiggio e non per la faccia a farità. Ma chi? E bisogna farsi la luce, ma se la rimane a voglia luce. E poi stamani in campagna, proprio non so dove la vendeva. Una mozzina è passata, dai. Era una mozzina, un bel passa di lui, era lì. Infatti la mozzina è da fare, magari forse la passata più forte alla battitoia. No, non ho fatto una bella costruzione, a Solifura, vabbè, dal vita, a di sopra, come ne fate la doccia, vai. Vedo un po', bisogna aprire un rubinetto, era, cazzo. Frecaburu, era. Ma non lo so cosa, c'è una resisti, boh. E poi chi sa che la moro serenizzata? Allora, infatti serenizzata se l'ho fatti male. Se mi fa di crescere, la zucca mi fa di crescere. Dai, dai. Io che andiamo, boh. Dai. E c'è il marino, ma la vedi? Ieri sera mi pare che è entrato, a buio asciarrato e ha detto arrivederci. Sei impegnato Marino Budo, sei travagliente, cazzo, una zappa in mano sotto all'aibure, però è dritto, la zappa la piglia in mano, sono un bacchino. Ma no, vai, travagliente, deve essere ancora a prendere un viale, non è entrato, sei impegnato nel viale ancora. Che ci viene l'acqua, un bel lago, così che viene la va. Io, vabbè. E poi che te ne sei, che è chiuso tu, mi è entrato lui. Ma non si chiude, si ripete, poi ha messo la gente all'interno, e non lo fa. Vabbè. Lo mettiamo a posto, meggiami, e t'aggiù da punire la puccio. Ma dai, forse è buono, no? Lasciamo che faccio il tempo pure. Bacchi, non sei uscito. La corretta era mancata, Bacchi. No, l'importante è vera. La voce non esce. Bacchi. Bacchi, capita. Aiuto, c'è la pola forte, brutto, eh. Sovrappopolati, siamo sovrappopolati. Ah, vai, hai sì, davvero, dai. Adesso la c'è la forza. Ok, ho già, no. Se non c'è la forza adesso, non avrei dubbio. Ogni tanto fate i capricci, sta parecchietto, fate il maggiorette, so. Sì. Ogni tanto fa capricci. Va bene, la avevo di nulla. Sai, guarda, quando c'è la mezza, non lo ricordo, il microfono. Il barilotto al microfono, c'è nulla, e no, non fa di contatto. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Va bene. Quando si molla non richiudi? Viene poco poco d'acqua. Ma va bene, non ne rugavi più. Non è malificio, no, bisogna fare un ragno. Quando si fa vedere la carcassiera non fatti fa vedere. Ma cosa, il barilotto di che cosa? Del capo del microfono? Sì, è quello lì che si molla ogni tanto. Certo, allora no, è tutto marandato allora. Oh, ho ciambato? Sì, sì, sì. No, è cambiato il pezzo interno, no, non l'esterno, non il barilotto interno. Il barilotto che c'è all'interno che deve cambiare, perché è dipendoso. Ho compreso. Cos'è, a 4 o a 5? 4, 4 fuori. Ah, mi pare. Non mi ricordo se ce l'ho. No, non ce l'ho, è di quello a 8. Oh, a cambiare quel pezzo, no. Ci vuole uno con le mani quadrate. Devi cercare di qui all'interno, per quello di saltare. Sì, ha giù giambato di peggio, ha giù giambato io. Aspetta. Ha giù giambato di peggio, ma chi? Lo devi staccare da dentro e poi a mano mettergli i fili. Poi mano a mano il bolli dei due picchi esce. Ci sono due picchi che lo bloccano. Infatti. Vittorio, lo devi staccare e poi a mano attaccando un filo attaccandolo là. Non fai caldo. È vero, Luca, amo degato di sì. Era giù, chi ti ha la benedizione c'è andato, e non ti rispondi. Hai compreso, Bacchi? Sì, Luca, avanti, buonasera. Ma che è? Io non sento nessuno, però, punto. È entrato, Luca, è entrato. Non so cosa c'era Edu, boh. Ha dato la benedizione, se ne è andato. Luca, Lucrezia, aiuto, Bottichino, sei zappolato, va, datemi lo fa allora. Ehi, andate così. Vabbè, ci metto a me, mi sociamenti, è già ora di... Va, ci sentiamo domani, ci sentiamo, Macchi, e Giomarì, a domani, ok, ciao. Ciao, ci sentiamo allora, buon proseguimento, sono in casa. Vai, Macchi. Ciao, Sole, buona serata, buona cena, buon tutto, ciao per la signora, a domani ci conoscete. Bene, Giomarì, mi sembra che anch'io ho questo prestatore, perché anche per la tanta ora. Ciao Giovanni, grazie delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto, saluta la famiglia, buon venerdì e buon proseguimento ancora di serata. Ciao! Ok, ciao Bacchi, ho ricambiato tutto, anche la parte nostra, dai. Saluto in casa e ci sentiamo domani se coincide. Ciao, buon proseguimento. Buonasera anche a Luca, se in ascolto. Break 23. Chi sei? Ciao Giovanni, mi senti, sì? Oh, ciao da fa, buonasera. Mi stavo chiudendo, già ti sento già. Sì, stavo provando se andavano le antenne dopo quella tempesta di ieri. Se va tutto bene, allora meglio così. Ok, già fra, dai. Io sto andando bene a radio, per cui tranquillo. Devo chiudere già fra. Sentiamo, là, buon proseguimento, troppo tardi se è entrato, ok? Domani si è coincide, va bene già fra. Ciao, ci sentiamo. Ok, ciao Giovanni, buona cena, buona serata. Sono entrato tardi perché stavo facendo qualcosa, facciamo un po' i controlli un po' dappertutto per vedere se va. l'ha fatto danni, ma sembra che sia tutto in ordine. Ok, ciao Giovanni ancora, buona serata e saluti a chi mi ascolto, ciao. Ok, ricambia tutto, ciao, ciao. Ciao. Chi sei, Fabrizio? Ciao Gianfranco, buonasera, da ascoltato, ho portato il tempo. Quella, ciao Fabrizio, vero chi ti sente, mannaggia, ma soprattutto chi ti vede, ma lo stai più scendendo? Sì, c'è anche stasera, lo stavo salendo, non resta, già sto scendendo, non tutti i giorni, però già sto scendendo, capito? E tu? E io c'ero sabato, di lì ci passo al ritorno, qualche volta anche all'andata, quando vado verso Senno di Castelsardo e poi torno indietro, quindi anche magari ci passo anche due volte, però non ho più visto la tua macchina, quindi ho detto bah, Fabrizio deve essere fuori. Già negativo, già sto scendendo, non spesso, poi già scendo, deve essere un coincide. Ma tu dove giri, dove vai? Ma guarda, io scendo il sabato, se non sono nella zona di Alghero, scendo, c'ero questo sabato, sono partito da Porto Torres, Orso, Signori, Sassari, Porto Torres, quindi ci sono passato solo una volta lì. No, due volte, perché poi son risceso sulla Budibuddi e sono passato lì, però non ti ho visto neanche su quando passo a ballare facendo allenamento, niente. Voglio non coincidere Gianfranco, ma io già sto scendendo, ho qui poi sono queste volte lì nel bar della piazzetta, il solito posto. Dipende, quando era sabato sono uscito da farmi girare bicicletta, capito? Dipende, vuol dire che non coincide. Sì, ma io sono fisso il sabato perché è la giornata libera, diciamo, o sabato, qualche volta anche giovedì, è così, so che arrivo anche presto e quindi passo anche presto, adesso magari un pochettino di più perché l'orario è cambiato, però insomma... Poi mi allontano, non rimango di capito, sono abbastanza distante. Ok, vuol dire che non coincidenza, io scendo, non scendo tutti i giorni, però già scendo e faccio il girettino, i papalai, poi mi fermo lì alla chiesetta, dipende, capito, sono tutti i girettini. Sì, ma infatti io guardo sempre, però ragazzi no, non abbiamo più visto, mentre prima ci incontravamo. Non ho più visto neanche la macchina, ma so che è sempre la stessa. E infatti io mi fermo, passo proprio di lì dove c'è la ciclabile di lì il Balai, no? Che sta andando a scatafascio anche quella. Al ritorno magari passo su quell'asfaltata che faccio prima. Ma quella ciclabile di Balai è tutta schifosa, sta buccia mare, capito? Se non la mettono a posto è allucinante, peccato è. Stanno uscendo i ferri, già l'ho visto. Io ci passo perché ho quella da cross, quindi passo sullo sterrato, sui sassi, eccetera. Infatti spesso mi faccio la pinetta, quasi sempre quando sono in quella zona. Entro in pinetta, salgo su e poi mi faccio la discesa anche abbastanza veloce finché non mi tronco sul corso. E poi si sbucco proprio dove sei tu, di lì dove c'è la piazzola. Il direttino che facciamo sempre anche io, no? Siamo in pinetta, quel diretto lì, capito? E poi vai a Balai, dipende dalla voglia e da cosa ti alza, cosa ti sale in testa il giorno. Capito? Vuol dire che già non coincidono i tempi, capito? Però già si sta andando, no? Tutti i giorni, poi già si scende. Quest'estate c'ho spesso di lì, quando non scendo al Valghero, non ho visto proprio per niente, forse nell'altra zona verso Castelsardo. No, diciamo, quest'estate a Plattamona quasi niente, qualche volta a Balai, altrimenti me ne andavo a Palleduria, capito? C'ho mio cugino dalla casa lì, poi c'è mezza famiglia mia di quel posto lì e quindi ho preferito dedicarmi a quel posto lì. capito, per la normalità la nostra, perché lui c'ha il gommone, capito, da pescare, quindi quest'estate saranno solo due volte lì al mare a Platamona, capito, sono proprio a Platamona, proprio a Balai, se no ero quasi ogni giorno lì, poi quando ero libero andavo, stavo tre giorni, quattro giorni lì, capito? Per cambiare il posto, poi un bel posto, poi da lì andavo verso l'Isola Rossa, col gommone, bellissima. Sì, io purtroppo quest'anno non sono proprio andato per niente al mare, proprio l'ho visto da lontano, perché scendevo, facevo tardi, perché a posto di fare, che ne so, un'ora iniziavano a essere due, a posto di essere di fare magari 20 km diventavano 60, e quindi qualche problemino insomma di orario, ero a rientrare. Ok, poi viste le cagate che hanno fatto lì a Plaza Mona, cazzo, si hanno mangiato più della metà dei posteggi, un casino, cazzo, più debili, cioè per trovare il parcheggio, secondo il giorno che vai al mare devi scenderci alle 6 di mattina, capito, proprio hanno fatto una schifezza. Sì, lasciamo perdere, meglio vogliamo parlarne di queste cose, perché veramente sembriamo proprio, come si dice, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, no? Ma veramente ne sta suonando a gogo. Allora, io molte volte non scendevo, molte volte quando scendevo magari in bicicletta dalla città, oppure quando magari non volevo scendere in bicicletta dalla città, la fermavo lì a Marchetto, quasi a un chilometro dalla, diciamo, dalla strada che poi ti porta di Corso della Morte, lasciavo la macchina da mio zio e poi scendevo in bicicletta, capito? Qualche volta, poi molte volte scendevo dalla città, capito? Però tanto mi arrivavo lì, secondo l'orario, sono il parcheggio, stavo girando, e rompivo le spalle. Allora, mi scendevo in bicicletta, tranquillo, facevo il girettino, poi mi cercavo un posto per dove potevo andare a passare la bicicletta, mi facevo il bagno, stavo un'ora lì e poi me ne salivo. Ma infatti te ne passa la voglia, ma anche scendere in bici, io me lo sono fatto a sabato, la Budi Budi, però non fanno, c'è certa marmaglia, io non so se tu li incroci, tu giri lo stesso molto, c'è un casino di gente che sta girando con queste macchine che fanno un fumo, me ne è capitata una di lì proprio quando stavo facendo la salita di lì di San Camillo, un fumo bianco, sembrava che da un momento all'altro andasse a fuoco, ma proprio non, alla gente non deve frega niente veramente, a posto di cercare di non inquinare, te ne passano queste macchine di merda, fanno fumo nero, fumo bianco, chi più ne ha più ne metta. Ma quando è così vuol dire che il motore si è crepato, il motore si sta bruciando olio, fumo bianco vuol dire che il motore gli ha fatto ciao ciao. Ma visto il proprietario che dovrebbe fare ciao ciao a circolare con la macchina, ma almeno non le tolgono il libretto e le mettono qualche migliaio di euro, così almeno oltre al motore si deve comprare pure, deve pagare pure la sanzione. Allora, no, sai, dobbiamo mettere le manette a questi personaggi così, e poi se trovano di quello, cazzo, sai quanto ti fa bene ai polmoni. Ma infatti sono dovuto fermare su un lato, lasciarlo passare, perché c'erano anche altre macchine che lo stesso stavano chiudendo i finestrini, ma sai quanti ne incontro di questi imbecilli, ma sono macchine che non le pagano, deve essere, o chissà per quale motivo questi carraggi veramente. Ne sto trovando parecchi, non credo che sia sempre lo stesso. No, ragazzi, ce ne sono tanta di questa gente, poi c'è gente che utilizza anche quella specie di liquido per le stufe, capito, lo mettono la benzina, un sacco di gaggate, capito? Ma infatti anche sabato, stavo passato, stavo facendo il giro con la Guardia di Finanza e pattuglia, se li ferma quelli lì, lesce il socco, la prima cosa che fanno è guardano quello che ci hanno messo sul battuglio. Allora, con quei tamponi che c'hanno, con quei reagenti, vedono cosa ci hanno messo, poi lo denunciano, capito? Anche per inquinamento, perché è una cosa che non si crede, cavolo. Vabbè, tutto tranquillo ieri, Fabri, da te. Perché qua c'era un pochino di tempesta, appena. Tranquillo in che senso? Il tempo? Non ti ha fatto danni, no? Ah, adesso è tranquillo, capito, già sento un vento, ha fatto poi il casino di fuori dalla città, aveva buttato qualche albero, come da tutte le parti, poi il resto la palazzina ha già con i piedi. Da quello che ho visto, mi sa che ne sta scendendo invece quella dove ero io, sembra un palazzo vecchio. No, è tutta buccia male, è proprio allucinante, sembra un palazzo di zingari, capito, io ho visto proprio l'altro giorno, i terrazzini già si spaccati, sotto, l'interno a cui sta gonfiando. Pensa dove siamo noi, questa qua, questa palazzina è del 75 e non è manco a fianco a Ghigia, capito? Vabbè che noi la curiamo, ma per dire no, questa buccia male, sembra una palazzina degli anni 50. Fabri, quando c'ero io in quella palazzina, quando ero di fronte a te, anche se era un condominio, diciamo, di persone anziane tranquille, però i soldi si cacciavano per fare lavori, capito? Qualcosa ce la facevamo noi, oppure qualcuno andava in giro a cercare un'impresa seria, ci siamo fatti la facciata, i terrazzini, ci siamo verniciati, abbiamo cambiato le grondaie, cercando sempre di risparmiare, ma ce le siamo fatti. Dove ero io, dove sono spostato, che era un palazzo nuovo, lo hanno distrutto, guarda, lo hanno distrutto, gente che non pagava, gente che non ne fregava niente, guarda. Di garaggi proprio. Allora, ti è stato benissimo andare alla cassa di condomini, poi lui, vabbè, da noi è già tranquillo, capito, è già tranquillo, non ha mai problemi, ci facciamo le cose. Da poco mi ho cambiato le plafonine sotto del portico con quelli sotto a me. Tutto che io avevo stato la pelle, queste cose le facciamo noi ormai se scherzano, capito? Però la palazzina di fronte a te, la gialla è bellissima, tutta bene. Ma l'altra, per carità, l'altra cazzo bari, ti ripeto, è una palazzina degli anni 50. Sì, infatti ti sto dicendo quando ci passo di lì, perché prima andavo a rifornire il gas dove c'è il rifornitore, quindi ci passavo spesso, poi ha aumentato troppo, quindi ho cambiato anche il rifornitore. E ho guardato, ho detto, un cancello sempre rotto, i terrazzini, sono passati 5 anni e non ci hanno messo mano. Finché non è cade qualche pezzo in testa a qualcuno, non sono contento. Sì, noi abbiamo fatto l'anno scorso i terrazzini, capito, dopo oltre 40 anni. Poi quelli che sono stati prima ci hanno fatto per fatti loro, ma noi poi ce l'abbiamo fatto, un amico esperto, l'abbiamo fatto con pochissimi euro, pochissimi. Invece i preventivi di questa gente qua, ma lascia perdere, 5.000 euro per fare due terrazzini, e noi abbiamo fatto 400 euro di materiale, capito, 400, a mio amico, con 700 euro abbiamo fatto i terrazzini, tutti quanti, da zero, pavimentati, anche i tinti, le ringhiere, capito, con 300 euro di materiale. Abbiamo risparmiato, occhio e croce, con il soldato mio amico, abbiamo risparmiato 4.300 euro, provviso. Ma la gente non ha capito che quando si va d'accordo si fanno tante cose e si risparmia pure. Quelli invece, quando si è in tanti, come si dice, sento Gabi, sento Barretti, no? Poi nessuno si sporca le mani quando c'è da fare qualche lavoro. Così l'amministratore è sempre disperato perché non c'aveva soldi. Io mi ricordo quando facevo i bilanci, tutto chiaro, tutte le spese, tutto quelli, non si capiva mai niente. No, ma noi lo facciamo una volta all'anno, capito? Siamo in sé, tranquilli, poi non ci sono bambini, c'è gente grande, capito? Quindi tre sono oltre 80 anni, arzilli, di cui sono professoresse in pensione, vedove, però nessun problema, capito? Quindi come che sei in tre in palazzina, capito? Non siete quasi mai. Perfettamente, poi adesso da noi, sia le gialle sia le marroni, non stanno facendo la differenziata. Ci hanno messo i cassonetti in miniatura all'interno del comparto. ma non è dappertutto, no, così, gli altri hanno il cassonetto fuori, poi da poco. No, noi lo stiamo facendo un paio di mesi, hanno iniziato prima ad ovvero su, andare gialle, poi sono passate e sono fatto l'altro colore, capito? E piano piano, perché tanto sta tutto dall'altro, è tutto così, è tutta differenziata, capito, con i vari cestelli singoli. E noi invece li hanno divisi, per esempio noi la nostra franfina siamo da soli, capito? Poi ci sono, dopo che abbiamo deciso ci hanno concesso di essere da soli, poi siamo tre, massimo tre franfine, capito? Che convogliano in questi cestini, capito? Hanno diviso, no? Tipo 3-4 punti per le verdi, capito? E quindi è tutto, non vedi più i cassoni alle strade, tutta la bombetta, i casini dove facevano la notte, buttando la roba. Capito? Molto, ma molto meglio, ma molto meglio. Cioè questo lavoro in Germania e in altri paesi lo fanno da 25 anni fa. Purtroppo noi iniziamo sempre molto, molto dopo degli altri. Basta vedere a Roma, che non ne vogliono sentire parlare a quanto pare. No, da noi c'è già, quante saranno, 3 anni che la stiamo facendo. Io ho tenuto presente che sono fuori, quindi sono già praticamente più che in periferia, praticamente sono neanche borgata, si può definire, dai, ma zona residenziale, campagna, però lontano dalla città. Però c'è la differenziata e quindi passano porta a porta, no? La metti fuori, c'è il giorno, il calendario in cui passano da fare. Sì, come da noi, uguale a voi, uguale identico. Adesso per il domani c'è vetro e umido, noi mettiamo i cassonetti, li mettiamo sopra dove c'è il cancelletto, capito? C'è un tasto all'interno, se lo aprono, così nei cancelli elettrici, c'è un tasto, se lo aprono, entrano dentro quel camioncino piccolino, capito? Poi lo rinforziamo, li mettiamo sotto, quello su tutti, o io, quello di sopra o l'altro, li mettiamo sotto il portico. È una cosa per noi, è bellissimo, è tranquillo, proprio, è una cosa perfettamente bene. Io poi ho parlato con il responsabile e mi ha detto che piano piano stanno cominciando con tutti quanti. Adesso è stato con noi, poi con quell'altro fianco a noi, sulla sinistra, quelle sono quelle palattine sul curvone, quel gruppo di palattine bianche sul curvone. Dice pezzo per pezzo dovremmo fare tutto così, ma è molto meglio, se pulizia non senti il casino, noi ce l'avevamo sotto la finestra i cassonetti, quindi sentivi il camion, poi tutte le centinaia di macchine che si fermavano e scaricavano di tutto e di più. Adesso la via notte è tutta perfettamente pulita. Visto che quando c'è la buona volontà le cose si fanno anche bene. Tutto lì. Piuttosto ti volevo chiedere due informazioni. La prima è se l'altro vicino c'è sempre, perché l'avevo visto l'ultima volta, oramai saranno 6-7 anni fa, il vicino a qualcosa che aveva l'antenna, adesso non c'è più la direttiva. Ah, la grabica sempre nel colore della palazzina mia? Sì, esatto, solo si entra dall'altra parte, no? Dall'altro lato. No, l'altro giorno l'ho visto, ma sempre lì. Va, cuocomane! Capito, Gianfra, è sempre lì, è sempre lì, l'ho visto l'altro giorno, siamo salutati. Ma è molto anziano, oramai avrà oltre 70. Sì, io penso che abbia anche un'ottantina, se non siamo lì, Ciao Luca, buonasera. Sono andato a salutarvi che sto cenando, ciao anche Gianfranco, avanti, riprendi. Sì, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato, non avevo capito chi era. Cosa volevo dire? Sì, ho saputo che è stato molto male, ma a quanto pare, se mi dici che è ancora in giro, vuol dire grazie a Dio lo so bene, era. Sì, un paio d'anni fa, stava male, facevo il cuore anche a Caglia, proprio ieri sera, l'altro giorno siamo visti lì al market, era tranquillamente in piedi, stava facendo una spesa con la moglie, siamo anche salutati, quindi è tranquillo, là. Ok, meglio così. E l'altro, l'impiasto invece, il vecchio, come lo vogliamo chiamare, insomma hai capito chi? Appena l'ho visto un mesetto fa, siamo trovati lì alla, come si chiama, al tabacchino, quello che c'era la chiesa, siamo trovati, salutavo, ciao, ho fatto mio, adesso devo, mi riprendo la radio, tanto non, non mi attiva, però ma chiesto se la sua patente andava bene, no, ma tu hai preso nominativo, vai, chiama a Cagliari, che sicuramente tu non hai più pagato, il nominativo non ce l'hai più. Gianluca, per te perché Fabrizio, secondo te ha continuato a pagare il canone quello, ma neanche di striscio, guarda. Allora, capito, ma tu infatti io accendo non c'è mai nessuno, ma lo accendi tu, guarda, ma io faccio accendere anche l'alimentazione. Io ho detto, non c'è più niente, no, non ti conviene, tanto è tutto digitale, gli apparecchi costano carissimi, quindi no, non te ne, no, neanche ti fanno entrare, perché non ti conoscono più. E allora, è così, purtroppo, è fatto così, proprio la moglie, cazzo, una santa quella donna. E infatti, guarda, in quel caso se avesse fatto un mariticidio l'avrei capita veramente. Allora, voglio uccidere il marito. Infatti, il giorno che la vedi comprando qualche grossa anguria, vuol dire che si decide a fargliela pagare. Ah, ma me l'aveva chiesto, se siamo più vicini. Ma sì, ma come, ma non c'è, ma non abita più lì. E lì c'era lì, sapete, una bella villa lì. Infatti, ho detto, verso San Giovanni, gli ho detto, una villa, lui, il fratello, è una gigantesca, piscina, infatti, 2 ettari di terra, di tutto e di più. C'ha una casa spettacolare, guarda quanto la palazzina dove abitava prima. Ma veramente, allora. Ti sei dedicato all'eliporto e poi il maneggio dei cavalli, il campo da tennis e poi la rimessa per le 6-7 auto, così giusto per vedere l'effetto che fa. Ma io glielo ho detto, no, cazzo, io sono andato a vedere una casa grandissima, amico. Cazzo, la tua stare lì nel palazzo dove cazzo sei tu, nella tribù di zingari. Capito, sta bene adesso, di uso, cazzo. Vabbè, poi ci ha messo 3 tralicci. E potevi fare anche 5 o 6, già che ce la fanno. Alti 100 metri, ovviamente. Allora, una torre 100 metri, capito? Più alta è più alta del palazzo che c'è a Dubai, 800 metri. Ui, che elemento da sbarco, ragazzi. Ma sempre di lì a fare... Ma come si chiama quello del West lì, quando entravi lì ti lanciava le birre, adesso non mi viene, non l'Ost, no, c'ha un altro nome, nel Saloon. Tu non ce l'ho preso, lui frequenta lì sempre la circola dei comunisti. Ah, ancora comunista, eppure. Allora, poi ho detto che stava passando al canto sardo. Per carità, deve essere rincoglionito, ma rincoglionito, che non è proprio la vita, guarda. Poi ho detto, ma la bicicletta non ce l'hai più, cosa hai fatto? Hai attaccato la mola e l'hai fatta in 1000 pezzi? No, se l'hai venduta sicuramente, se l'avrà venduta. Ma sai che è qualcosa di bello, le persone che hanno lavorato dove ha lavorato lui, che sono tutti come lui, vedete l'aria, vedete tutta quell'aria che hanno respirato. Perfetto, no, ma io non so se lo conosci, noi prima uscivamo con Giovanni che lavorava al consorzio lì, al consorzio industriale che è Porto Torres, ed esce ancora. Boh, che è questo qua, Giovanni? Il cognome non mi viene adesso, però lavorava al consorzio in pensione da tantissimi anni. Boh, non ce l'ho presente, perché... così Gianfra, purtroppo è così, purtroppo è nato così e tutto, non si ricorda la luce a domani, fra il gabbo. Sì, ma certe figure, guarda, mamma mia, proprio, guarda, se lo vedo le regalo una bella pala, arrivissimi anni, però, no? Anzi, direttamente uno scavatore. Allora, grazie. Vabbè, guarda, là, io vado a mangiare, là, sono già le 8:25. Mi ha fatto piacere averti ascoltato. Ancora io, siccome un paio di mesi fa ho perso la scheda mia telefonica, no? E me l'ho fatta rifare lo stesso numero, giustamente. Però ho perso tutti i numeri. E il tuo numero non ce l'ho più. Tu ce l'hai sempre il mio numero. di tanti anni fa. Ce l'hai sempre? È sempre il solito. Segna che uno dei tetti iniziali, 3-2-8, poi è 4-6-4 finale. Ok, segnato, poi lo controllo. E il mio è sempre lo stesso, non l'ho mai cambiato, quindi è sempre operativo. Ma ti ripeto che ho perso la scheda, Gianfra. Ho perso la scheda e l'ho dovuta bloccare, no? Giustamente, poi me l'ho fatta rifare con lo stesso numero. Però ho perso tutti i numeri che avevo in memoria, capito? Però una parte di quei numeri io ce l'avevo anche segnata in un'agenda, me li segno sempre, però di tu e altri no. Quindi se tu adesso c'hai il mio numero, quando vuoi mi fai uno squillo o mi mandi un messaggio, così io me lo metto in memoria. Sì, io di numeri ne ho due, c'ho quello di servizio e l'altro privato, ma sono tutti e due, diciamo, operativi H24. Quindi adesso controllo se corrisponde, se no già se entri, tanto adesso è inverno, entriamo più spesso, già ci troviamo, dai. E così ci magari ti mando un'email, quello che vuoi, comunque se vuoi anche l'email, la mia email già lo sai, quella è il nominativo tiscali.it. Ehi, a quella che ce l'ho segnata, adesso qual è l'agenda. Vabbè dai Gianfra, ci sentiamo, dai, stammi bene, buonanotte, buon tutto, ci sentiamo, dai. Io tanto sono sempre qua in nascosto, sul 23 o sul 10, quando sono a casa è sempre acceso, capito? Se non c'è preparazione magari in HF sono sempre in monitor lì. Vabbè dai, ci sentiamo Gianfra, alle prossime. Ok Fabi, mi è stato un piacere ascoltarti, buona serata e buona cena, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, buonasera anche a tutti gli ascoltatori, ciao. Ehi, ciao Gianfra.